Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno caro ascoltatore di Radio 24, anche oggi mercoledì 14 di giugno, perdonatemi, Oscar Giannino solo ai microfoni qui perché il fratello, compare Alino, si è preso qualche giorno con i suoi bimbi. Abbracci, abbracci, abbracci da parte di noi tutti, e lo avete già sentito oggi la Crivelli. Vi dico subito, se volete telefonarci all'800 24 00 24, gli ospiti su cosa sono? Io aggiungo anche un'altra domanda, vedrete che gli ospiti sono su una questione che è molto importante per i romani, non solo per i romani, ma innanzitutto per i romani, perché torneremo a parlare nella coda che ha molta importanza oggi sui giornali e sulla virata e le sterzate, le correzioni di rotta dei 5 Stelle dopo le elezioni amministrative, di una questione abbastanza importante a Roma, guidata dal sindaco Raggio, cioè dello stadio, lo stadio della Roma. Da fare, non da fare, da fare in quelle lì dove si è detto perché sì, perché no, com'è che chi era contrario un tempo adesso è favorevole, chi era favorevole un tempo oggi è contrario. Mi interessa capire innanzitutto ai nostri ascoltatori romani, chiamateci all'800 24 00 24, come la pensate, se siete favorevoli, siete favorevoli lì, da quello che avete capito, cosa avete capito della posizione delle sovrintendenze monumentali, archeologiche e culturali romane, perché non è così facile averlo capito nemmeno in quel caso, visto che siamo parlando di due pronunzie molto diverse. Viva lo Stato, sempre complesso e incasinato. E allora telefonateci su questo, però io vi faccio anche un'altra domanda per gli ascoltatori che non fossero troppo interessati o che non considerassero troppo significativa la vicenda dello stadio a Roma, che è una vicenda sempre collegata alla sovrastima delle grandi opere, l'impatto sulle città, la coda che hanno poi rispetto ai costi stimati e ai benefici stimati, i costi si rivelano più elevati, i benefici minori. Io per esempio non sono convinto che in quella parte, in quell'ansa del Tevere e con quel tipo di terreno, ma soprattutto non sono convinto che le infrastrutture viarie di trasporto per mettere uno stadio lì siano adeguate, ma queste sono opinioni mie che amo Roma e ho vissuto per anni a Roma. Però un'altra domanda vi faccio, se volete telefonare, perché siccome il fatto è avvenuto ieri, tanto vale approfittarne. Mi riferisco alla vicenda che trovate su tutti i giornali oggi con più o meno evidenza, ma nelle pagine di cronaca, e cioè la condanna che è avvenuta nei confronti di due pubblici ministeri per colpa e dolo, perché sottovalutarono le ben 12 denunce presentate da una signora, Marianna Manduca, nei confronti dell'ex marito, che finì poi uccisa a coltellate dall'ex marito. Stiamo parlando di una vicenda di molti anni fa, era ottobre dell'87. E in questo caso sì, oltre a riconoscere colpa e dolo, lo Stato deve è stato condannato al risarcimento, perché deve pagare 253.000 euro al padre adottivo dei tre figli della signora che fu uccisa. Sapete come funziona la legge sulla responsabilità dei magistrati? È una legge che individua la responsabilità indiretta, quindi è lo Stato che paga, ma è lo Stato che può rivalersi. Io vi faccio una domanda, ma in un caso come questo, per esempio, eclatante, no? Uno dice, Giannino, non criticare, c'è la legge sulla responsabilità del magistrato, sono stati condannati, lo Stato paga, poi se vuole si rivarrà. Io vi chiedo, ma non bisognerebbe cacciarli su due piedi? Cioè, neanche questo è sufficiente per adottare una sanzione automatica, visto che è morta una donna e c'è una sentenza che attribuisce nel loro caso dolo e colpa. Ce la caviamo con lo Stato che può risarcirsi su di loro del fatto che paga lo Stato agli eredi? solo questo? Non lo so, io non sono giustizialista, però mi pare che nemmeno in presenza di questo scatta il fatto che un magistrato non può più essere magistrato. Cos'altro deve capitare perché sia previsto automaticamente? Ve lo chiedo con grande sincerità e rapido piluccamento prima di andare alla prima questione dello stadio a Roma, di quello che mi ha colpito sui giornali. Per esempio, io la penso come Angelo Panebianco su Corriere della Sera. Ho sperato che ci fosse qualche grande partito che si intestasse la difesa del maggioritario nei primi mesi di questo anno e si candidasse così in nome della governabilità e del maggioritario a diventare il pilastro di una ricostruzione politica italiana dopo, quando constatati gli effetti della proporzionale pura, tutti sarebbero tornati a toccare con mano che lasciare le mani libere ai leader di partito è un errore capitale, levare quel po' di potere che hanno gli elettori nell'indicare coalizioni e programmi. La penso come Angelo Panebianco, ma sono deluso, non c'è questa forza politica, purtroppo manca e... La conferma viene per esempio dall'intervista a Repubblica che trovate oggi al segretario del PD Matteo Renzi e nessuna resipiscenza. Matteo Renzi continua a dire che lui ha rimesso il posto per il referendum perché ha difeso il maggioritario. Nel referendum non si parlava di maggioritario, però è inutile, mi sono arreso perché tanto Renzi non ripete altro che questo argomento. E quindi purtroppo le cose restano così. Per me è incomprensibile. Io ho sperato che fosse il PD ad ancorarsi alla difesa del maggioritario in nome della governabilità futura. Invece non è così, e non è così neanche nel caso di Berlusconi, neanche nel caso di Berlusconi. Dopo il risultato amministrativo, che pure che cosa comprova? Che il centrodestra, quando è unito con un meccanismo maggioritario come quello della legge elettorale dei sindaci che spinge alla convergenza, c'è e come, eppure anche in quel caso niente da fare, per così dire. E allora che cosa volete che vi dica? Altra cosa che mi ha colpito, che richiamo alla vostra attenzione, l'intervista del sindaco di Napoli al Corriere della Sera oggi, De Magistris, perché ha una domanda di Fulvio Buffi che gli chiede esplicitamente: ma insomma, lei tra 5 anni intende candidarsi premier? De Magistris, sindaco di Napoli, e la risposta netta è sì, la sfida è quella, Napoli è diventato un modello politico. Allora io accetto qualunque giudizio, benvenuta anche questa nuova ambizione. Napoli come modello politico, preferisco non esprimere giudizi, ecco. Se uno va a vedere lo stato dell'efficienza, dell'offerta, delle scene dei servizi, io non ho opinioni assolutamente diverse da quelle che ho per la delusione a Roma in questi mesi del sindaco Raggi e dei 5 Stelle. Anzi, se uno va a vedere la qualità dell'offerta, è addirittura inferiore a Napoli, ma questo non lo dico io per la mia sensazione personale. Però ecco, un paese in cui ogni parola di un leader politico è, per così dire, libera e scissa da numeri, fatti e giudizi terzi. Faccio un ultimo riferimento a una cosa che mi ha colpito sui giornali stamattina, mi ha sorpreso fino a un certo punto. In questo caso la traggo da Repubblica, Repubblica trovata a pagina 31, titolo: pensioni d'oro sindacali, il taglio voluto da Boeri. Taglio voluto da Boeri significa circolari attraverso i quali fare il ricalcolo contributivo dei sindacati distaccati della PA per evitare che il sindacato a cui appartengono e che li ha distaccati possa attuare un ricalcolo figurativo, di contributi figurativi, cioè a carico di noi tutti, in cui la loro pensione retributiva cresce ulteriormente con questo puro artificio contabile. Ecco, allora, pensioni d'oro sindacali, il taglio voluto da Boeri resta fermo al ministero. Ma va? Ecco, ma va? Cioè, a me sembra che in questa Italia zoppata i poteri forti, i poteri morti, però anche forti nella morte, siano loro su queste robe qua. Siano loro, perché, vedete, se i sindacati per primi hanno i trucchetti retributivi a proprio vantaggio, vi ricordate Bonanni che con mia enorme sorpresa, leader della CISL, apprendemmo negli anni della sua leadership come calcola, come crebbe la sua retribuzione, in maniera che figurativamente la pressione retributiva andasse a una cifra incredibile al mese. Se i sindacati per primi sono così, come potete immaginare che possano essere attori di richieste di un ricalcolo degli eccessi di pressione retributivi nell'interesse di chi versa oggi contributi alle pensioni non le avrà mai? Non possono esserlo, perché manca loro la credibilità del fatto che loro esattamente per se stessi fanno la stessa cosa. Ecco, mi fermo qua perché non c'è bisogno di polemiche, ma andiamo invece, dopo aver ricordato oggi gli auguri a Valerio Rufino, Fortunato, che sono i santi tra quelli che si ricordano oggi, appunto, e aver ricordato che tra gli avvenimenti del giorno, oltre il compleanno di Francesco Guccini, di Francesco Rutelli e di Gianna Nannini, e anche il compleanno di Donald Trump, vedo che molti ascoltatori hanno mandato messaggi a Giulia Crivelli prima, Giulia Crivelli no, dicono gli ascoltatori, è un po' troppo filobamiana, un po' troppo critica del Trump. No, Gian Crivelli, secondo me, non legge i giornali e vi dà e commenta facendo la rassegna, non è questione di dichiarare fedi politiche. Però oggi è il compleanno di Donald Trump ed è insieme anche il Flag Day negli Stati Uniti, cioè il giorno che commemora la scelta di Star and Stripes, la bandiera degli Stati Uniti, che fu scelta nel 1777, e però è anche il compleanno di Donald Trump. Vedremo che cosa ci riserva la giornata, su quale maniera singolare. Non ho visto i tweet notturni del Presidente degli Stati Uniti, magari ne ha già fatto qualcuno in cui annuncia qualche iniziativa straordinaria per il suo rutilante compleanno. Allora andiamo a questa vicenda su cui qualche giorno fa, l'11 giugno, ha scritto sul Corriere della Sera Sergio Rizzo. Sergio Rizzo, mano impareggiabile, non voglio dire altri titoli, editorialista, inviato il Corriere della Sera, ma insomma ne ha scritto da par suo, e io lo ringrazio di essere con noi stamattina a telefono. Buongiorno Sergio. Buongiorno a tutti. Abbiamo aggiunto oltre a Sergio Rizzo il presidente di Italia Nostra, perché Italia Nostra, mentre a Roma i partiti hanno sicuramente cambiato idea sullo stadio, Italia Nostra è ferma nel no e minaccia una bella raffica di ricorsi impugnative qualora la decisione dovesse essere diversa, e quindi è con noi il presidente di Italia Nostra, Oreste Rutigliano. Buongiorno e grazie, Rutigliano. Buongiorno a tutti. Allora, Sergio Rizzo, primo, ma perché il PD, che era favorevole, adesso è contrario, i 5 Stelle erano contrari e oggi sono favorevoli? Bella domanda, perché la politica è così in Italia, no? È il gioco, e questo qui è... non è che fa eccezione lo Stato della Roma, attenzione. E non è che fanno eccezione le questioni locali, perché anzi, no, sulle questioni locali forse il contrasto si infiamma ancora di più. È la storia classica nostra, no? Avevano, ai tempi di Marino, avevano approvato una variante, che poi non era proprio una variante, ma insomma avevano approvato un cambiamento al piano regolatore che avrebbe spianato la strada a questo grande intervento urbanistico nella zona di Tor di Valle, con grande entusiasmo, devo dire, al PD. Allora, all'epoca l'hanno sempre difeso, l'hanno difeso anche successivamente. Poi a un certo punto, mentre invece i 5 Stelle addirittura, va ricordato che la sindaca Raggi fece, allora che era semplicemente consigliere comunale, un esposto sostenendo che la scelta di quell'area era, aperte virgolette, scellerata, chiuse virgolette. Quindi da questo già si capiva quale doveva essere il tenore della questione fra 5 Stelle e il Partito Democratico. Oggi si è invertito tutto. Oggi i 5 Stelle sono quelli che invece vogliono fare lo stadio, il Partito Democratico è quello che è contrario. Naturalmente poi loro non è che dicono di essere contrari allo stadio, ma dicono di essere contrari alla procedura con cui si sta realizzando quest'opera, tra l'altro con delle modifiche sostanziose rispetto al progetto originario che loro avevano approvato, perché ci sono meno infrastrutture pubbliche a carico del concessionario che avrebbe dovuto realizzare quest'opera, perché non ci sono una serie di cose, che investimenti che erano stati preventivati, per tutta una serie di ragioni. Però sta di fatto che le posizioni si sono invertite, e la cosa è oggettivamente curiosa, no? Curiosa perché ti fa capire so, 5 Stelle per esempio, io sinceramente non riesco a comprendere qual è la logica per cui si rifiuta di fare le Olimpiadi a Roma, che peraltro avrebbero offerto loro l'occasione di dimostrare che si potevano fare delle cose con i soldi pubblici senza magari senza... appunto limitando le sovraspese con un certo rigore, con un modello diverso dagli sprechi dei mondiali o, sì, dei, o sì, quelli di nuoto, insomma. Ma poi sai, a Roma le cose a Roma servono i soldi, perché poi qui si potrebbe fare un discorso sulla capitale che insomma porterebbe via troppo tempo. Però a Roma c'è da finire la metropolitana, cioè ci sono delle cose da fare, oggettivamente i soldi non ci sono. Nel momento in cui ti si offre l'occasione di dimostrare che tu le sai fare senza appunto le tangenti, senza le mazzette, senza gli sprechi, come dicevi tu, perché non farlo, no? Perché non provarci? Infatti l'ex assessore Bertini all'urbanistica era d'accordo su questa cosa. Era d'accordo, sì. Quindi si capisce perché loro sono contro il cemento, invece lo stadio lo vogliono fare. Ma come si spiega a propria volta il parere diverso delle sovrintendenze con competenze diverse, ovviamente, e concorrenti su Roma, dell'amministrazione che dovrebbe presiedere in nome dell'interesse dello Stato e di tutti a i beni e gli interessi culturali, monumentali di Roma? Bella domanda anche questa. Io sinceramente non sono nella testa dei vari sovrintendenti, però noto che c'era stato nel 3 anni fa c'era stata una presa di posizione della direzione dei beni paesaggistici, attenzione, del Lazio, sì. Favorevole. Dopodiché arriva un pronunciamento contrario della sovrintendenza di Roma. Quindi questa è una cosa oggettivamente singolare. Mi dicono che il vincolo, quello di cui insomma che sarebbe stato abolito ora, era stato scritto male, quindi che si sarebbe poi aperta tutta la strada dei ricorsi al TAR con le conseguenze che conosciamo in questo paese. Questo è un paese di matti, attenzione, cioè un paese dove non esiste certezza del diritto neanche nelle cose più elementari. E tra l'altro il TAR ha appena bocciato, poi si vedrà il Consiglio di Stato, l'intervento con il quale il Ministero appunto cambiava l'organizzazione delle sovrintendenze a Roma, con una grande sovrintendenza, Colosseo, fori imperiali, Colleoppio, cioè l'ex dimora neroniana e Palatino, e poi tutta un'unica grande sovrintendenza straordinaria rispetto a quelle attuali che sono diversificate, ce n'è una nelle mura aurelane, una esterna e così via, tanto per non dimenticare che sullo sfondo abbiamo anche quest'altra botta terrificante, per cui sì, poi c'è anche, voglio dire, la questione del vincolo. Tu il vincolo, per carità, va benissimo tutto, no? Io un po', diciamo, qualcosina me ne intendo, ma sinceramente non riesco a capire perché, con quale logica si possono vincolare delle strutture come le tribune dell'ipotesi ordinale, che basta andare lì per vedere che cos'è quella zona, no? Cioè non, ora, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare sullo stadio, sì, lo stadio no, d'accordo. Ma cioè, opponiamo che lo stadio non abbia senso lì, no? E può avere anche una ragione che sostiene questo, assolutamente sì, ma il vincolo sulle tribune di Tor di Valle. Dopodiché c'è il sovrintendente di Roma, perché i nostri ascoltatori devono sapere che esiste anche una sovrintendenza capitolina, cioè della città, certo, di Roma, certo. Ecco, il quale a un certo punto dà un parere in cui dice: ma in effetti, cioè, queste tribune si potrebbero spostare. Si potrebbero spostare. Ma io non lo so come viene in mente che si possono spostare degli affari di cemento armato lunghi 200 metri, ma non vabbè, so come... E quindi, insomma, in parole povere, a noi tocca descrivere queste vicende kafkiane, partiti che cambiano radicalmente opinione, sovrintendenze che mettono pareri diversi. Resta il fatto che poi l'unico vero criterio che io capirei meglio è ma quel tipo di sedime di terreno in quell'ansa fluviale è adatta per questo? Uno, due. Nel frattempo, che cosa bisognerebbe spendere in più come assi viari della città? Perché quella è un'area che oggi rappresenta una non priorità per l'orientamento dei flussi di trasporto tecnologici. Però queste vicende qua invece vanno in seconda battuta e tutto il resto diventa un caos. Che pensa invece Oreste Rutigliano? Perché voi siete fermi come Italia Nostra nel dire no, non si può fare, impugneremo? Noi da 60 anni siamo impegnati a difendere i piani regolatori, le regole, la legalità. E lo stadio ha rappresentato qui a Roma un esempio di come la forza del denaro, la forza degli interessi sia in grado di rompere le regole. Italia Nostra, rispetto alla città, ha queste idee. La prima è che di stadi non ce ne voglia uno ma due, perché in questo modo si libera il grande complesso del Foro Italico, che è un esempio straordinario di architettura moderna, e quindi lo si lascia tranquillo, libero dalle orde di tifosi che, come sapete, vanno rompendo addirittura i mosaici ammirati in tutto il mondo. Considera gli stadi delle grandi opere che possono essere utili a riqualificare la città. Ha studiato in questo periodo che in tutte le città del mondo gli stadi nuovi vengono fatti al centro dei quartieri, occupando una decina di ettari, in modo da portare con sé, insieme a delle belle nuove architetture, qualità, attrazione e centralità rispetto a dei quartieri magari dimenticati e degradati. Lo stesso ragionamento abbiamo fatto per Roma. Abbiamo detto fatelo lo stadio, certamente, ne siamo felici, ma fatelo in quella zona est che da 50 anni chiede di essere infrastrutturata, chiede di essere riportata alla modernità, chiede di essere liberata dai mali che la affliggono, a cominciare da una densità edilizia incredibile, dalla mancanza di spazi per i giovani, dalla mancanza di campi dove poi possono andare a giocare, dove possono avere lo spazio vitale per vivere una città moderna e felice. Questa è la nostra idea. Di fronte allo stadio a Tor di Valle, fin dai tempi di Marino, lo scandalo è stato grande, perché era stato appena varato un piano regolatore che prevede 10 centralità, perché questo stadio di Tor di Valle non è uno stadio, era un centro, era ed è un centro direzionale, nasce come centro direzionale. Esattamente. E nasce come centro direzionale dove? Non dove dice il piano regolatore fatto appena 10 anni prima, bensì in un luogo dove per caso un costruttore in crisi, Parnassi, notoriamente legato al PD, ha acquistato. Sta esattamente inquadrando la ragione storica per cui si finisce su quell'area. Questa è la ragione, ed è una ragione sconfortante, perché riporta Roma ai tempi più bui, ai tempi, cioè, sì, dei palazzinari in cui decidevano loro. Sì, sì, è così. Ma questo è un fatto inoppugnabile, cari ascoltatori, non è l'opinione personale del presidente di Italia Nostra. Questo è un fatto, cioè il motivo per cui si finisce in quell'area è esattamente questo. Basta saperlo, poi questo non è che io dico che debba orientare le scelte, però insomma ha un certo peso, ecco, nel valutare tutto il progetto. Di un costruttore, di aver acquistato per tempo un ippodromo andato in crisi e fallito, e da quel momento un'operazione sotterranea fatta anche con appoggi stranieri in America, con fondi tra l'altro non poco chiari, che da quel momento inizia un lavorio enorme per dire: vi faccio vedere una cosa meravigliosa e scintillante con i grattacieli dell'Archistar, e adesso vedrete che cosa porteremo a Roma: la modernità, la bellezza. Allora, io non sono contrario ai progetti in quanto tale, di riqualificazione anche molto rilevante urbana, ma anche nelle aree centrali urbane. Vediamo Porta Nuova a Milano che cosa è diventato rispetto a chi diceva no, perché questo è un paese in cui non si butta giù mai un muro e non si costruisce mai una cosa del tutto nuova, perché è tutto vincolato. Ma detto questo, Il problema è che in quell'area, e rispetto a come funzionano i flussi di trasporto, effettivamente io penso che chi ha avuto un no storico come Italia Nostra abbia una buona dose di ragioni dalla loro parte, anche perché nasce come centro direzionale, poi si dice pur di farlo però no, abbattiamo radicalmente le cubature del centro direzionale, detto da parte di chi era contrario e adesso ha cambiato idea. Insomma, come vedete la vicenda, abbiamo dato solo uno spaccato con la ricostruzione di Sergio Rizzo e l'opinione e i dubbi forti di Italia Nostra del suo presidente, resta aperta, vedremo cosa, che sviluppi avrà. Intanto noi adesso andiamo in pubblicità, poi sentiamo le vostre telefonate. Grazie a Sergio Rizzo e grazie a Restrutti. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci tornati qua in studio e volevo segnalarvi altre due cose che mi hanno colpito oggi dai giornali prima di passare alle vostre telefonate. Siccome i giornali dedicano oggi grande spazio nella coda delle amministrative alla svolta antimigranti, no? Che sarebbe in atto nei 5 Stelle come risposta anche all'insoddisfazione per il voto amministrativo, è una svolta calata dall'alto da Grillo e subito abbracciata dal sindaco, così faccio contento l'ascoltatore che è insorto perché ho detto sindaca, dal sindaco Raggi anche a Roma. Allora mi piace, come spesso capita, il taglio che la stampa di Torino diretta da Maurizio Molinari dà a questa vicenda, perché la incardina una lettura di questo fenomeno dei migranti, dei profughi e così via, che è vero è stato uno dei segnali chiari che gli elettori hanno dato alle amministrative, perché hanno punito dovunque i sindaci che avevano accolto di più rispetto ad altri i profughi. Comunque le pagine dedicate, pagina 2 e 3 oggi della stampa, al fenomeno dei migranti, sul fenomeno complessivo dei mercanti di uomini che colpiscono anche in Italia. Questo fenomeno riguarda almeno 21 milioni di persone nel mondo, ma un bel po' passa dal nostro paese. È secondo me una ottima lettura oggi, a dirvi la verità. Però vediamo un po' le vostre telefonate. Cominciamo con Gianluca che ci chiama da Udine, credo sulla vicenda dello stadio di Roma. È così, Gianluca? Buongiorno Giannino, sì. Sono Gianluca Schmidt, sono sales marketing manager di Udinese Calcio. Ah, ecco, quindi esperienza diretta e professionale nel campo. Temo proprio di sì, io sono milanese, sono qui da 3 anni, prima ho lavorato anche all'Inter e vi ho ascoltato con grande piacere. È inevitabile che io faccia un confronto con la Dacia Arena, che è un stadio multifunzionale di proprietà, e soffro quando sento parlare di politici che subentrano in un tema di questo genere, perché non sono consapevoli del fatto che la Roma Calcio è una pepita dalle uova d'oro, con una quantità di tifosi pazzesca, delle opportunità di business, io vedo la parte marketing e vendita, certo, evidentemente pazzesca. Allora, la famiglia Pozzo ci ha messo 10 anni a fare la Dacia Arena, tra l'altro con una municipalità che l'ha appoggiata, e mi viene male a pensare quando lo riusciranno a fare a Roma con una situazione di questo genere. La Dacia Arena è una realtà a 15 minuti dal centro di Udine, con un flusso di arterie stradali notevole, c'è la tangenziale vicina, c'è un centro commerciale. Esatto. E quindi devono partire da un punto di vista diverso. Lo dico da osservatore che segue anche con interesse tutti gli aspetti manageriali e del fenomeno economico e finanziario del calcio. Su qual lei ha ragione. Uno dei difetti storici dei regolatori italiani fu quello, per esempio, di far quotare le società di calcio senza richiedere, come in altri paesi, che fossero proprietari di asset fisici, cioè degli stadi, che poi sono fonte e origine, no, del merchandising e di una capacità di generare utili non collegata semplicemente agli andamenti della partita. Noi oggi facciamo 115 eventi all'anno, da 20 persone ai testimoni di Geova. Detto questo, la capacità e serietà delle società di calcio che fanno bene a perseguire questa strada è proprio quella, sapendo l'Italia, la difficoltà del contesto politico per cui la gente cambia idea ai partiti, i vincoli, le amministrazioni. Poi stiamo parlando di Roma e stiamo parlando dei problemi di congestione e di orientamento storico degli assi viari e del ritardo della metropolitana a Roma. Purtroppo le società di calcio, per perseguire quella strada sacrosanta, devono andarci 10 volte più non prudenti, ma più precise nelle individuazioni delle aree, delle priorità e così via, perché altrimenti si impaniano, rimangono prigionieri del vizio, non ottengono nulla e rimarranno ancora più deboli finanziariamente di prima. Quindi io ringrazio la sua che è un incentivo a far bene e a fare, non a dire no e basta, così ho capito bene. Sentiamo invece Salvatore da Cosenza, se è su questa vicenda o su quella dei magistrati. Salvatore, prego. Buongiorno. Sì. Io chiamo per i magistrati. Dica, dica. Secondo me i magistrati sono responsabili e devono essere licenziati, come anche gli altri dirigenti dello Stato che restano sempre impuniti. Tipo i dirigenti del Ministero del Tesoro che hanno acquistato tutto il Fossici, o i dirigenti dell'istruzione che hanno inventato le classi atipiche, un obbrobrio giuridico, ma questi restano sempre impuniti. Allora, questa è naturalmente, a me tocca dire da giornalista che questo verrebbe respinto da un qualunque o da moltissimi giuristi, sì, sicuramente da chi rappresenta i magistrati, dicendo siete matti, perché cosa pensate voi di fare con queste norme di automaticità? Sarebbero eserciterebbero un'influenza del tutto impropria e inaccettabile sulla libertà di formazione delle opinioni nell'atto dell'assunzione o di provvedimenti, quelli che spettano ai PM, oppure di decisioni nel procedimento da parte di un giudice. Questa sarebbe la maniera con cui lei verrebbe liquidato. Io sostengo invece che in caso di fattispecie molto gravi e acclarate in giudizio, come in questo caso qui c'è un giudizio su dolo e colpa grave in ambito di una legge che io ho costato un passo avanti, ma non risolutivo, un passo avanti che dice in questi casi il magistrato può essere giudicato, si becca la condanna, lo Stato ripaga i danni agli eredi, in questo caso della donna morta, di cui rimanerono senza sviluppi ben 12 denunce, può decidere se rivalersi. Ecco, io in un caso come questo credo che nessuno possa dirmi che voglio esercitare un'impropria influenza sulla libertà del magistrato, se in caso di dolo e colpa grave da cui è ricavata e avvenuta una morte, un omicidio. Ecco, io in questo caso credo sì, che non possa più continuare a fare il magistrato, che non basta la rivalsa dello Stato che intanto paga i danni agli eredi, che eserciterà o meno nei confronti del magistrato, non è neanche tenuto a farlo, può valutare se farlo, ma io credo che in quel caso non si può continuare a fare il magistrato. Non mi interessa che lo cambino di sede, penso che lo debbano, sì, licenziare. Io sono proprio di questa idea, come il nostro ascoltatore, e mi chiedo se nemmeno in un fatto, in una circostanza così eclatante vale, ma allora quando vale? Mai, infatti, mi dice che difende la ragione dei magistrati. E io, nel pieno rispetto del fatto che non sono né la legge né tantomeno il legislatore, però ritengo che non sia giusto e accettabile. Stefano da Roma, prego Stefano. Sì, buongiorno, io chiamo invece per la questione dello stadio della Roma, perché abito da quelle parti e ho apprezzato le considerazioni che avete fatto in merito alla viabilità e ai sistemi di trasporto. Può confermarla, no? Posso confermarla. Innanzitutto, allora, i sistemi di trasporto sono indecenti. Il treno Roma-Ostia è un treno degli anni 30, come lo dimostra anche l'architettura. Secondo, Ostia è una zona di 200.000 abitanti, sarebbe diventato uno dei comuni più grandi d'Italia qualche anno fa quando facemmo il referendum, e adesso sarà arrivato a 250.000 con tutta l'edilizia selvaggia degli anni 90 e degli anni 2000. E terza cosa, la via del mare e la via Ostiense sono due strade separate e tutte le mattine attualmente c'è un chilometro di fila a Tor di Valle proprio perché c'è un semaforo che regola il traffico. Ultima cosa, il vincolo architettonico è una presa in giro, perché in quella zona ci sono solamente le prostitute e gli zingari, non c'è nessun altro. Purtroppo è così, cioè le rovine dell'ex ippodromo alla cui altezza di tribuna sarebbe vincolato lo stadio, in realtà chiunque conosca Roma sa che Stefano ve la sta descrivendo, ma non perché è propenso al degrado, a fare il celebratore, l'aedo del degrado di Roma, magari perché critico il sindaco, perché è così, quella di Roma è così. Quindi io sono per riqualificarla, non sono certo però che la prospettiva più giusta sia uno stadio fatto lì, oltretutto uno stadio privo del centro e senza i soldi direzionali e senza i soldi per fare quindi gli assi viari necessari. Non lo so, questo resta il mio dubbio, ce l'ho da sempre. Intanto ringrazio anche Stefano da Roma, continuate su Radio 24, appuntamento con me alle 4:30, ovviamente con la versione di Oscar.